Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La lode tutta appartiene ad Allah, il Signore degli universi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Non c'è divinità se non Allah, che è unico, che non ha compartecipi nella sua qualità divina. Ilahan wahidan ahadan samadan fardan withran. Il Dio uno, unico, eterno, singolare, senza pari. Hayyan qayyuman daiman abada. Vivente, sussistente in sé, sempiterno, eterno. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Il quale non prese compagna né figlio. Walam yakul lahu sharikun fil mulk. Il quale non ha compartecipi nella sua sovranità regale. Walam yakun lahu waliyum min adh-dhul. E che non ha amico di scarso valore. Wa kabbirhu takbiran Allahu akbar. Magnificalo con il takbir. Allah è grande in assoluto.